Leo, mia proszę sto astro kanno mia fi, na to sechi oluskala, ja ty tu se chuego, mesti gardiamo. Mesti gardiamo.